vedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è difficile un anno senza te. Adesso scrivi aspettami, il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò, com'è possibile restare senza te? Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami. Tornerò, pensami sempre, sai, e il tempo passerà. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tornare indietro vorrei Vorrei che questa sera fossi tu a togliermi l'abito da sposa. Tu piangi e nel cuore tuo che tormento c'è. Sto sperando che tu trovi forza per gridare. Ma un organo già suona questa Ave Maria. No, no, no. Oh, dolce e tenera la sera. Scende piano sopra noi, liberando dalla mente tanti piccoli tabù. Con il respiro che mi sfiora, come faccio a dirle no? Con lo sguardo da innocente, lei si stringe lentamente, forte, forte a me. Amore fragile, nel mondo noi saremo liberi se tu lo vuoi. Bambina semplice, negli occhi tuoi c'è già la favola che vivrò con te. Sua mano un po' insicura dolcemente cerca me, che impaziente sta aspettando che la stringa tra le braccia forte forte a me. Amore fragile, nel mondo noi saremo liberi se tu lo vuoi. Bambina semplice, negli occhi tuoi c'è già la favola che vivrò con te. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Non lo fai più. niente adesso. No, non ti cerco più. Voglio che tutto rimanga così. E adesso no, non cercarmi più. Lascia che sia tutto quanto così. Io non voglio dividere più questo amore che tale non è, è soltanto un continuo tormento. Evitiamo che sia un fallimento. Voluto dar.